Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis e buona Pasquetta a tutti gli ascoltatori. È uscito pochi giorni fa il Solar Energy Report a cura dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. Si tratta di un rapporto molto dettagliato e devo dire a mio avviso molto interessante e ben scritto sullo stato dell'industria dell'energia solare, un po' in generale, con un focus particolare sulla situazione italiana in questo settore. Ne parliamo con Vittorio Chiesa, che è appunto direttore dell'Energy Strategy Group. Buonasera Chiesa. Buonasera. Allora, Chiesa, il rapporto è appunto un rapporto molto completo che cerca di fare il quadro dei tre filoni principali dell'energia solare, quindi il fotovoltaico, il solare termico, quello che si usa per riscaldare l'acqua, insomma, e poi il solare termodinamico. Avremo sicuramente occasione in futuro poi di entrare magari un po' più in dettaglio in alcuni di questi temi. Per intanto vediamo quali sono i risultati più importanti che sono emersi, quali sono i numeri che colpiscono di più, a cominciare dal fotovoltaico. Ma il fotovoltaico, diciamo, ha raggiunto delle tappe che sono un po' sancite da cifre importanti. L'Italia con il 2009 ha raggiunto il gigawatt di potenza installata e per potenza installata nel solo 2009, avendo superato i 600 megawatt, rappresenta il secondo paese al mondo dopo la Germania. Quindi è chiaro che questo, insomma, fa del fotovoltaico, diciamo, una fonte che, sebbene in assoluto ovviamente abbia un impatto ancora basso, dimostra però una dinamica di crescita molto interessante, peraltro testimoniata anche dall'importanza del giro d'affari che ormai questo comparto smuove. Si può parlare di 2,3 miliardi di euro di giro d'affari complessivo per le imprese che operano direttamente nel comparto e di 1,5 miliardi di indotto, quindi di componenti e tecnologie che vengono realizzate, tirate da questo settore, quindi quasi un complesso di 4 miliardi di euro. Questi sono sicuramente i numeri più importanti. D'accordo. Ecco, il settore del fotovoltaico spesso viene criticato, per così dire, in questo senso, cioè ci sono degli incentivi, sono incentivi anche molto importanti con un metodo intelligente che è quello del conto energia, però insomma le celle, soprattutto le celle fotovoltaiche, vengono prodotte fondamentalmente all'estero. Quindi la domanda è, da un lato, se comunque c'è una parte di filiera, lei in qualche modo ha già risposto, che è riconducibile all'Italia, ma soprattutto se nel futuro possiamo aspettarci di divenire anche, come dire, dei produttori, magari nelle nuove tecnologie del fotovoltaico. Ma il, diciamo, è evidente che paghiamo un po' il ritardo con cui questo tipo di settore è stato incentivato. È chiaro che oggi anche sui mercati italiani la fanno da padrone imprese tedesche, imprese statunitensi, ormai con grande aggressività e competitività di prezzo le imprese cinesi in generale dell'estremo oriente. Va però detto che la dinamica che si è creata negli ultimi due anni ha anche innescato la nascita di una filiera industriale italiana. Quindi nella produzione anche di moduli, quindi di celle fotovoltaiche. Sì, sto parlando di produzione di celle e moduli, cioè del pezzo, diciamo, della parte tecnologica della filiera. D'accordo. Mentre quella a valle, distribuzione e installazione, dove ovviamente è premiata la presenza locale, è largamente in mano alle nostre imprese. Per forza di cose, perché per non è delocalizzabile come ristorante. Molto insomma. Più difficilmente. Peraltro però si sono create anche qui realtà importanti, dimensionalmente significative, che oggi fanno l'attività di installazione, system integration, diciamo operano come EPC contractor anche su mercati esteri. D'accordo. Senta, proviamo a parlare un po' di solare termico invece, sì, che è una fonte un po' sottovalutata. Diciamo che viene considerata proprio una fonte un po' sfigata. In realtà non lo è affatto. C'è un potenziale molto elevato che in Italia mi sembra non sia stato molto colto. Esatto, diciamo, è un po' un parente povero, diciamo, nell'ambito così delle fonti rinnovabili. Si è registrato anche nel 2009 una crescita, sono state installate circa 350 megawatt termici, il giro d'affari è sostanzialmente stimabile in 500 milioni di euro. Però, diciamo, la penetrazione del solare termico in Italia, a dispetto delle condizioni ovviamente favorevoli di applicabilità, sono molto inferiori ad altri casi europei. Ogni tanto mi domando se il motivo per cui, nonostante siamo il paese del sole, insomma, per usare anche una definizione abusata, si diffonde poco il solare termico, è che se uno in fondo va in Sud Italia si accorge che tutte le case in cima hanno una grossa cisterna di acqua e basta il calore del sole che picchia su questa cisterna d'acqua per avere acqua calda. In fondo non è che c'entra un po' questo fatto? Ma sì, forse anche il fatto che in generale diciamo è una filiera che è in mano fondamentalmente a una parte a valle, quindi faccio riferimento a installatori classicamente molto piccoli e che quindi è una soluzione che difficilmente viene offerta al mercato residenziale finale. Io ritengo che questa sia la più grande barriera. Quindi è un problema di competenza da parte degli installatori? Sì, questo sicuramente è un limite, è una barriera, non c'è dubbio. Dall'altra parte va detto che poi il grande potenziale di sviluppo futuro è l'impiego del solare termico nella soddisfazione del fabbisogno di calore a livello industriale. E di questo le prometto che ci risenteremo e ne parleremo. Grazie. D'accordo. Chiesa. Grazie, buonasera a voi. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. Mister Kilowatt ritorna domani, passiamo dal sole al vento, parleremo di mini eolico. Ricordo a tutti che potete ascoltare le puntate di Mister Kilowatt in podcast dal sito della radio www.radio24.it. Buona serata a tutti.